Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Tra i tanti fenomeni di costume pittoreschi che hanno caratterizzato gli anni Ottanta, ce n'è uno ovviamente di importazione americana che nella seconda metà del decennio ha spopolato anche in Italia, il wrestling. I am a real American, fight for the rights of every man. I am a real American, fight for what's right, fight for your life. Prima sulle TV generaliste, poi sui canali satellitari, grazie alle funamboliche telecronache di Dan Peterson, il pubblico italiano si associa a quello statunitense nella celebrazione delle gesta di personaggi come Ted DiBiase, Macho Man, Jake the Snake, Ultimate Warrior e soprattutto Hulk Hogan. Da Venice Beach, California. Hulk Hogan, Hulkamania, Hulkamania, come dicono in America. Con la sua musica composta per lui, mi deve spiegare un giorno perché ha questa cosa in bocca. Il wrestling americano è una via di mezzo tra sport e spettacolo, tra competizione e intrattenimento. I lottatori, infatti, assumono delle identità fortemente caratterizzate, spesso con tanto di costume, musica di riferimento e mosse, e seguono delle linee narrative predeterminate, scritte da sceneggiatori degni di Hollywood. Regge il tutto il concetto di kayfabe, una sorta di sospensione dell'incredulità, in nome della quale tutti coloro che fanno parte del mondo del wrestling non devono e non possono rivelare i segreti del backstage e non possono mostrarsi al mondo per quello che sono nella vita di tutti i giorni. Sono come attori che non possono uscire pubblicamente dal personaggio. In poche parole, i match sono tutti predeterminati in nome di un grande spettacolo di massa. Il wrestling, però, non viene praticato solo in America. Negli States è nato come spettacolo itinerante da fiera ai primi del Novecento, ma poi ha attecchito in altri paesi del mondo con numerose varianti. Nei paesi latinoamericani, ad esempio, si chiama lucha libre ed è uno spettacolo molto più cruento, per palati forti. Il wrestling ha grande tradizione anche in Canada, ma il paese in cui in assoluto esso ha trovato una struttura più solida e ramificata è senza dubbio il Giappone. Il wrestling professionistico giapponese nasce da un incrocio tra il sumo, una delle discipline di lotta più antiche del paese orientale, e il wrestling americano. Questa disciplina ibrida ha un nome tutto suo, Puro Resu, che è un'abbreviazione di Puro Fessonaru Resu Ringu, cioè Professional Wrestling. Il Puro Resu sorge ufficialmente nell'immediato dopoguerra, seconda metà degli anni 40, e mostra subito delle differenze notevoli rispetto al wrestling americano, differenze che saranno mantenute anche nel corso dei decenni, fino ad arrivare ai giorni nostri. Innanzitutto è caratterizzato da incontri molto più simili a combattimenti reali e quindi molto più violenti e duri rispetto a gran parte di quelli americani. In secondo luogo, nel Puro Resu non si tende a evidenziare i personaggi e le loro attitudini, bensì la bravura e l'abilità sul ring. In America è più importante che il wrestler possegga carisma, una buona arte oratoria e un costume spettacolare, ancor prima del saper lottare. Le differenze non si fermano di certo qui, in quanto vanno a intaccare anche il modo in cui il wrestling è visto dalla società e il modo in cui è rapportato ad essa. In Giappone, i lottatori del Puro Resu sono visti come eroi nazionali perché, per tradizione, qualsiasi tipo di lotta assume un aspetto quasi sacro. Mentre negli States il lottatore viene visto più come un intrattenitore o come un VIP di Hollywood, in Giappone egli viene rivestito di un'aura quasi sacerdotale. Altro aspetto particolarmente interessante del wrestling giapponese è il fatto che i retroscena dei vari match sono organizzati come negli Stati Uniti, senza però predeterminarne l'esito. A ciò consegue un trattamento privilegiato anche da parte della stampa, che tratta questa disciplina come uno sport agonistico. In termini di regolamento, invece, la lotta giapponese e quella americana sono decisamente simili. Come detto, il puro resu nasce a metà degli anni 40. Come spesso accade però, perché una nuova disciplina esploda veramente, c'è bisogno di un primo grande personaggio che faccia da profeta presso il grande pubblico. Il puro resu ha il suo profeta in quello che è anche il nostro primo personaggio di oggi, Ricky Dozan. Ricky Dozan. Il nome Ricky Dozan è probabile che non vi dica nulla. In Giappone, invece, è ancora oggi considerato come una semidivinità, una figura straordinaria per il wrestling e per tutti gli sport di lotta. La sua è una storia affascinante. Il suo vero nome è Kim Sin-nak e nasce in Corea del Nord il 14 novembre del 1924. Rimasto presto orfano, Kim viene adottato da una famiglia di Omura, vicino a Nagasaki, in Giappone. Per un coreano crescere in Giappone negli anni 30 non è facile, date le continue discriminazioni cui deve far fronte. Così, ben presto, per tentare di passare inosservato, adotta il cognome della sua famiglia adottiva, Momota. Mitsushiro Momota, nome che sarà poi disconosciuto qualche anno dopo, è il suo cognome giapponese. A 15 anni, Mitsushiro incontra la sua grande passione, il sumo. Si iscrive nella migliore scuola di sumo del paese, trasferendosi a Tokyo e lasciando la sua famiglia. Iniziano anni di duro allenamento e di trasformazione fisica. Arriva a pesare 140 kg. Nel sumo, Mitsushiro arriva fino al grado di Sekiwake, due livelli sotto il grado di Yokozuna, il più alto livello nel sumo professionistico. Il suo carattere ribelle, però, lo porta a un'accesa discussione durante una gara ufficiale con un arbitro. Subirà una pesante squalifica, cosa che lo spinge ad abbandonare la disciplina. In realtà, quell'arbitro mi ha discriminato per via delle mie origini coreane. La comunità coreana in Giappone, purtroppo, viene spesso discriminata e tutto ciò è diventato inaccettabile. Mitsushiro si dedica anima e corpo al karate e si iscrive nella scuola del fondatore del Kyokushin Karate, Oyama Matsutatsu. Il karate Kyokushin è un particolare approccio a quest'arte marziale che Matsutatsu, coreano, che aveva vissuto il dramma dell'occupazione giapponese negli anni 30, aveva creato, pensando proprio alle discriminazioni subite dal suo popolo dai nipponici. È proprio il maestro Matsutatsu che assegna a Mitsushiro il nome di Ricky Dozan, quello che lo ha poi reso celebre nel mondo. Mentre Ricky Dozan si allena come judoka, a Tokyo la Croce Rossa giapponese organizza un evento di matrice strettamente occidentale. Dagli States, una grande serata di wrestling. Più per curiosità che per reale interesse, Ricky Dozan va ad assistere all'incontro. Il pubblico ha gremito in ogni ordine di posto il palazzetto in cui si sta svolgendo questa esibizione. I giapponesi impazziscono. Lo spettacolo dei lottatori americani li ha letteralmente catturati. A tre file dal ring c'è Ricky Dozan. È come ipnotizzato. Questa lotta così libera da regole rigide ed etichette, eppure armoniosa e spettacolare, gli sembra incarnare alla perfezione ciò a cui ha da sempre aspirato. Due settimane dopo, Ricky Dozan e altri tre judoka professionisti, Masahiko Kimura, Toshio Yamaguchi e Koukichi Endo, fondano una scuola di wrestling. Sono dei pionieri. Per qualche settimana rimangono gli unici e si informano grazie a libri e a contatti con gli States. Poi, progressivamente, la palestra nella quale si allenano inizia a popolarsi. La voce si sparge e prende corpo una nuova disciplina destinata ad avere grande successo. È nato il puro resu. Ricky Dozan sfrutta la popolarità che aveva acquisito come lottatore di sumo per diffondere la nuova disciplina. Un'altra mossa si rivela vincente. Organizza i primi match esibizione contro lottatori americani scelti apposta. A soli 6 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e del tragico eccidio compiuto dagli States a Hiroshima e Nagasaki, Ricky Dozan trasferisce sul ring il senso di rivincita del popolo giapponese. In breve, diventa un eroe nazionale. Ottobre 1951, isole Hawaii. Ricky Dozan è stato invitato per un match da Bobby Burns, detto lo spacca ossa. È la grande occasione. Dopo i 10 minuti pattuiti, il match finisce in parità. Lo spaccaossa è impressionato da Ricky Dozan e decide di tenerlo con lui alle Hawaii per farlo entrare a far parte del circuito NWA, dove otterrà una serie incredibile di vittorie, 255 in 265 incontri disputati. Nel luglio 1953, Ricky Dozan, tornato in Giappone, decide di fondare una lega nipponica di wrestling. Si sa però che quando la fama arriva, imprevista, imprevedibile, la scelta delle amicizie può diventare un problema. Così Ricky Dozan, quando fonda la Japan Pro Wrestling Alliance, sceglie come socio Nick Zappetti, che è un manager ma è anche un elemento di spicco della Yakuza. Una scommessa decisamente azzardata. La federazione giapponese ottiene subito grande successo. Ricky Dozan e un altro lottatore, Masahiko Kimura, sono gli atleti di punta. Spesso combattono in trasferta, ancora alle Hawaii, che in questo periodo sono un po' il centro del wrestling mondiale. Nel novembre del 1953, Ricky Dozan vince un torneo mondiale per 8 lottatori e poco dopo sfida Lou Tetz, la grande stella del wrestling americano. Gli appassionati di wrestling in tutto il mondo ancora considerano questo match come uno dei più grandi della storia. Ricky Dozan perde in 43 minuti condotti alla pari. Si guadagna il rispetto assoluto degli americani e diventa ancor più un eroe nazionale, accolto al ritorno in patria da una folla impressionante, calorosa e commossa. Il 19 marzo 1954 è un altro giorno storico, un momento fatidico anche per la storia e l'orgoglio nazionali del Giappone. Va in scena un incontro di coppia tra Ricky Dozan e Masahiko Kimura contro gli statunitensi Ben Sharp e Mike Sharp, ai tempi gli International Tag Team Champions. Un match intrinseco di significati morali e politici. Un'esplosione di gioia incredibile travolge la nazione nipponica quando i due giapponesi sconfiggono gli americani. Il Giappone ormai ama il wrestling e su questo non ci sono dubbi. È solo il primo di una serie di grandi successi che portano Ricky Dozan ad essere un vero e proprio eroe nazionale. Quando un uomo che è stato capace di farsi straordinario pioniere in qualche ambito raggiunge l'apice, generalmente capitano due cose. Tra i tanti giovani che lo ammirano, qualcuno tenta di seguirne le orme e in qualche caso ne diventa a tutti gli effetti allievo. D'altro canto, il successo sconfinato di una persona suscita invidia, attira anche la cattiveria, genera pericoli. A Ricky Dozan capitano entrambe le cose. Scopriremo l'allievo e le minacce tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Molti di voi avranno certamente riconosciuto questa sigla. Si tratta dell'Uomo Tigre, una serie a cartoni animati di grande successo trasmessa in Italia a partire dagli anni Ottanta. Si tratta di un anime, cartone animato giapponese tratto da un manga, un fumetto. Il manga è datato 1969. La serie, invece, in Giappone, esce nel 1971. Protagonista della serie è Naoto Date, un uomo dall'infanzia difficile e dalla doppia vita. La notte, infatti, si trasforma nel più straordinario lottatore mai esistito, l'Uomo Tigre. Questa serie e il suo incredibile successo sono una testimonianza diretta di come il wrestling diventi, già dai primi anni 60, uno degli sport più popolari del Giappone e forse dell'Asia intera. Oggi vi stiamo raccontando la storia di Ricky Dozan, il grande lottatore che di fatto ha inventato il wrestling giapponese, il cosiddetto puro resu. Chi di voi ha presente però le vicende raccontate nella serie L'Uomo Tigre ricorderà certamente che accanto al protagonista un ruolo di grande importanza avevano due personaggi. Si tratta di lottatori reali, vere e proprie superstar del puro reso, due allievi del grande Ricky Dozan. Il primo è il gigante Baba. L'altro, forse il più grande lottatore giapponese di tutti i tempi, è anche il nostro secondo personaggio di oggi, Antonio Inoki. Antonio Inoki. Inoki è probabilmente il wrestler giapponese più noto nel mondo occidentale e non solo per i cartoni animati dell'Uomo Tigre. Tra gli anni 70 e gli 80, nel periodo d'oro delle emittenti televisive private in Italia, quando le TV satellitari erano un sogno lontano, il wrestling si chiamava catch e veniva trasmesso a tamburo battente nella sua versione giapponese. Le gesta di questi bizzarri eroi venivano cantate dal telecronista Tony Fusaro nella trasmissione Catch the Catch, in onda su diverse emittenti private. Nel marzo dell'82 contro Colossetti, guardatelo. Guardatelo in questo momento con questo gioco di corde. Precipita al tappeto. Si risolleva a malapena. Questo poderosissimo atleta viene calciato al di fuori delle corde. Kanji Inoki, questo è il suo vero nome, nasce nel 1943 presso Yokohama, decimo degli 11 figli di Sajiro e Fumiko Inoki. Il padre muore quando Kenji ha solo 5 anni, un fatto tragico che rende complessa l'infanzia del futuro lottatore, ma che riesce a non perdersi. Completa gli studi, lavorando contemporaneamente per aiutare la madre, e si appassiona nel frattempo al sumo. La sua famiglia possiede una piccola TV davanti alla quale Kanji non perde un solo incontro del suo idolo, Ricky Dozan. Quando il lottatore passa dal sumo al puro resu, il wrestling giapponese, il giovane Inoki si appassiona a questa disciplina. Nel 1957 la sua famiglia emigra in Brasile. Uno zio offre grandi opportunità di lavoro alla madre e ai fratelli più grandi, un'occasione da non perdere. Il mio trasferimento in Brasile fu un fatto necessario per questioni di soldi, ma molto doloroso. Lasciai tutti i miei amici, il mio mondo, sebbene fossi molto piccolo, per andare in un mondo ignoto. Lì mi dedicai all'atletica leggera in diverse specialità, ma non sarei, credo, diventato un professionista. Se fossi rimasto lì, avrei fatto qualcosa di completamente diverso. In Brasile, il ragazzo mette in mostra il suo grande talento atletico, riuscendo a vincere nel 1959 i campionati brasiliani juniores di getto del peso e di lancio del disco. La passione, però, è sempre il wrestling. Nel 1959 arriva per una tournée nello stato carioca proprio il suo idolo, il grande Ricky Dozan. Inoki è naturalmente in prima fila a vedere i suoi match, ma non è tutto. Il grande lottatore organizza una sorta di seminario per aspiranti giovani lottatori, una sorta di lezione dimostrativa. Grazie agli agganci dello zio, il giovane riesce ad assicurarsi un posto nello showcase di Ricky Dozan. Non esistono racconti ufficiali di come sia andata quella lezione. La verità si mescola alla leggenda. Fatto sta che poche settimane dopo, Inoki è su un aereo per Tokyo. Motivazione? Entrare nella scuola di Ricky Dozan, che lo ha personalmente invitato a entrarvi. Per il giovane è il coronamento di un sogno. La sua vita cambia completamente prospettiva grazie all'incontro con il grande Ricky Dozan. Nel 1960, Kanji Inoki cambia il suo nome e diventa Antonio Inoki, in omaggio al wrestler americano Antonio Rocca. Gli allenamenti alla scuola di Ricky Dozan sono particolarmente massacranti. Esercizi estenuanti, cura maniacale dell'alimentazione, disciplina ferrea. L'impatto non è facile. Inoki stringe amicizia con il gigante Baba, uomo colossale destinato a diventare insieme a lui l'altro grande pupillo di Ricky Dozan. Il debutto di Inoki avviene il 30 settembre 1960 con una sconfitta contro Kintaro Oki. Nella stessa sera debutta anche Gigante Baba. La vera star del wrestling giapponese, però, continua ad essere Ricky Dozan. Nel 1962 sconfigge l'americano Fred Blessy e conquista il titolo appena istituito di campione del mondo. Sempre in quell'anno combatte più volte ancora con Lutez, il più grande wrestler di tutti i tempi. Match sempre spettacolari, a volte vinti, a volte persi, ma intrisi di profondo rispetto. Insomma, nei primi anni 60 Ricky Dozan è un uomo venerato in tutto il Giappone, con una scuola di lottatori fiorente, un erede designato come Antonio Inoki, il rispetto dei lottatori e dei media americani e un titolo mondiale conquistato. Non ha fatto i conti con un dettaglio. I legami avventati con la Yakuza, che ha istituito al momento della fondazione della federazione, stanno per esigere un tributo molto alto. 8 dicembre 1963, Tokyo. In un nightclub di sua proprietà, Ricky Dozan sta dando una festa. C'è molta gente, musica, belle donne, ottimo vino. A un certo punto, però, gli si avvicina un uomo. «Ti devo parlare», gli dice. È Katsuji Murata, del clan Yakuza Sumiyoshi Ikka, un clan rivale di quel Nick Zappetti con cui si è messo in affari. I due si appartano, hanno una discussione. Murata estrae un coltello e lo colpisce violentemente e ripetutamente all'addome, e poi se ne va. Ricky Dozan torna alla sua festa, fa finta di nulla, interagisce come prima, scherza, ride, è abituato a sopportare il dolore. A fine serata cede, cade al suolo, viene trasportato in ospedale. Morirà una settimana dopo, facendo sprofondare il Giappone nella disperazione più profonda. Ai suoi funerali a Tokyo partecipano decine di migliaia di persone giunte da tutto il Giappone. In prima fila, dietro al feretro, c'è il suo allievo, Antonio Inoki. È straziato dal dolore. Per lui, Ricky Dozan era quel padre che aveva perso a 5 anni. È anche determinato. Sarà il suo erede e il nuovo ambasciatore del wrestling giapponese in tutto il mondo. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia del più grande lottatore giapponese di sempre, Antonio Inoki, e del suo maestro, Ricky Dozan. Quest'ultimo muore nel 1963, ucciso da un sicario della Yakuza. Da quel momento Antonio Inoki, per il quale Ricky Dozan era stato come un padre, giura a se stesso che diventerà il numero uno per onorare la memoria del grande maestro. L'ingresso sul ring è forse il momento più importante per un wrestler. In questa disciplina, in tutte le sue varianti geografiche, c'è sempre un equilibrato cocktail tra sport e spettacolo. E la parte più spettacolare, quella che emoziona e carica i fan, che crea aspettative, che intimorisce l'avversario. Anche Inoki cesella con cura il suo ingresso. Sceglie una musica che lo accompagni epica e fatale, intitolata Onno No Fighter, e opta per uno stile sobrio, camminata composta, sguardo concentrato, avvolto in un accappatoio colorato e circondato dal suo staff. I suoi fan, che negli anni 60 iniziano a diventare molti, impazziscono. Basta che nel palazzetto riecheggino le prime note del trascinante motivo di Inoki e subito si scatena il delirio. Ad accoglierne l'ingresso sul ring, infine, l'annuncio di uno speaker che pronuncia il suo nome sempre allo stesso modo. Inoki, al di là della marcia che ne accompagna l'ingresso, sviluppa uno stile di combattimento immediatamente riconoscibile. Veloce, rapido, agile, fulmineo. Talvolta il suo modo di combattere sembra assomigliare a un balletto. La fama di Inoki cresce rapidamente in tutto il mondo. Il lottatore, infatti, va spesso negli States per affrontare atleti americani. In Giappone, sebbene idolo delle folle, ha spesso screzi con le varie federazioni, che spesso vivono la sua eccessiva fama come un problema. Inoki reagisce fondando federazioni alternative con altri wrestler. È il caso della Tokyo Pro Wrestling, creata il 12 ottobre del 1966, o della New Japan Pro Wrestling, il 26 gennaio del 72 al Keio Plaza Hotel di Tokyo. Quest'ultima diventerà rapidamente la più importante lega professionistica di wrestling di tutta l'Asia. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang, my baby shot me down. Una delle grandi battaglie di Inoki è quella per dare credibilità al suo sport. Mi amareggia sempre molto sentire che qualcuno non considera un vero sport il wrestling. Forse oggi, in qualche federazione, ci può essere un eccesso di spettacolo, ma i lottatori sono a tutti gli effetti grandissimi atleti e grandissimi combattenti. Per questo motivo Inoki durante il 1976 si impegnerà in una serie di sfide che lo vedranno contrapposto a campioni di altre discipline da combattimento, proprio per voler smentire tutti coloro che definivano il wrestling finto. Il primo è il match contro la medaglia d'oro di judo alle Olimpiadi di Monaco del 72, Willem Ruska, conclusosi col KO dell'Olimpionico. Poi la mitica sfida allo Shea Stadium di Flushing contro Muhammad Ali, finito in pareggio dopo 15 minuti, e quindi la sfida contro il campione del mondo di karate, The Monster Man, conclusasi anch'essa vittoriosamente, chiudendo così la serie. Dopo questa parentesi, Inoki tornerà alla sua regolare carriera da wrestler, anche se non disdegnerà mai qualsiasi tipo di sfida originale. Il 4 ottobre 1978 affronta il lottatore Masa Saito in uno stravagante Island Death Match. I due vengono portati sull'isola di Ganryujima, dove senza pubblico lottano per oltre 2 ore. Il periodo più fulgido della sua carriera, Inoki lo raggiunge a cavallo tra gli anni 70 e gli 80, quando si avvicinano per lui le 40 primavere. Arrivano le rivalità storiche, André the Giant e Hulk Hogan su tutti. Noi italiani iniziamo a conoscerlo grazie alle mitiche telecronache di Tony Fusaro. Arrivano anche i grandi trionfi nella specialità tag team, gli incontri di coppia insieme a Giant Baba prima e poi al mitico Hulk Hogan in un secondo momento. A 44 anni, quando in Giappone è ormai una sorta di semi-divinità, arriva un'altra grande sorpresa per i suoi fan. Lascia il ring e decide di dedicarsi alla politica. Viene eletto senatore e si impegna attivamente in politica estera come ambasciatore di pace. Si reca ad esempio in Iraq in piena guerra del Golfo e incontra Saddam Hussein per contrattare il rilascio degli ostaggi giapponesi. Visita Cuba, incontra Fidel Castro, si reca in Cambogia, Somalia, Mozambico, Centro e Sud America come messaggero della non violenza. La politica è stata solo una parentesi. Non credo che la politica debba essere una professione, ma una parentesi nelle vite di vari professionisti che, per quel lasso di tempo, decidono di servire la causa del proprio paese. Io ho fatto questo. Quando quel lasso di tempo finisce, Inoki torna sul ring. È tempo di sparare le ultime cartucce. Ric Flair, grande campione americano, viene affrontato e sconfitto al May Day Stadium di Pyongyang, davanti agli occhi di 190.000 spettatori. Il 4 aprile del 1998, davanti a 70.000 persone, va in scena lo show intitolato The Inoki Final, la kermesse d'addio. Al suo cospetto, tutti i suoi avversari storici. Muhammad Ali, Seiji Sakaguchi, Akira Maeda, il suo erede Tatsumi Fujinami, Tiger Mask, Satoru Sayama, Killer Khan, Bob Backlund ed Eric Bischoff, che nel 95 l'aveva introdotto nella WCW House of Fame. L'unico riconoscimento in onore alla carriera proveniente dall'oltreoceano. Nel giorno malinconico del suo ritiro, Inoki pronuncia un discorso commosso e sentito, che si chiude con una dedica importante. Il cerchio, in qualche modo, si chiude. La mia intera carriera è dedicata all'uomo senza il quale io non sarei mai diventato ciò che sono oggi, il mio maestro assoluto di lotta e di vita, come un padre, più di un padre. Tutto ciò che sono lo devo a Riki Dozan, scomparso troppo presto, al quale sarò sempre, fino all'ultimo minuto della mia vita, riconoscente. My best friend gave me. understand.